E buonasera, buonasera a tutti. Ciao Ciachi. Ciao Martina, ciao ragazzi. Siamo tornati a Daily Bug, il programma radiofonico numero uno al mondo nello sviscerare tutte le frustrazioni tipiche di una giornata lavorativa. Finalmente, finalmente anche oggi siamo qui con voi per tenervi compagnia mentre tornate a casa, mentre cucinate, mentre pensate a cosa vedere stasera in TV. Intanto ascoltate noi. Esatto. Per i primi super fan, fateci sapere se ci sentite bene. Come sempre, facciamo un check tutti insieme che vada tutto a posto. Sa, un, due, tre, prova, sa. Tema di questa sera l'avete scelto voi anche questa volta. Siccome era andato bene il sondaggio del mese scorso, Il perché sondaggione. non rifarlo? Certo, giusto. E quindi di cosa parleremo? Parleremo del Il mio boss è differente. Puntatore anche stasera, Martina. Sei. Intrattenimento garantito. Sì, tra l'altro questa sera sarà un po' speciale, nel senso che non abbiamo ospiti. Perché questo? Perché ci siamo accorti che è un po' pericoloso come tema, per cui li abbiamo lasciati, diciamo, anonimi, gli ospiti di questa sera. Esatto. Anche se adesso abbiamo anche una redazione con la nostra E Gretana. Fedoro, che tra l'altro compie gli anni E questa tanti sera. auguri, qua ci vorrebbe lo Eh stacchetto. sì. Però, Tipo vabbè. gli applausi falsi. Esatto. Ma comunque io sento altissimo, facciamo un po' meno. Abbassa la Facciamo un cuffia. po' meno. Abbassa la cuffia. Comunque, Abbassa la cuffia. comunque. Non sento un cazzo. Scusate. Ma infatti non ti si sente, Certo che hai abbassato il microfono. Adesso credo di sì. Molto bene, Martina, grazie. Mamma dice sì, ti sento. Ottimo, ciao mamma. Bene, ottimo. Ciao mamma. Allora, quindi cosa succede? Succede che appunto questa sera non avremo ospiti, ma magari qualche domandina a tradimento a Fedoro la Ma faremo. Ma certo. tanto lui non lo sa. E comunque, iniziamo subito con la nostra super tradizione, cioè i numerini di Chucky. Esatto, una bella ricerchina anche questa volta. Esatto. Infatti ti ho chiesto di fare una ricerca su un fenomeno che a me incuriosisce molto e che secondo me è molto legato al tema di questa sera, cioè il fenomeno delle dimissioni di massa. Esatto. Perché? Perché dovete sapere che il lockdown è stato rivelatore di comportamenti davvero interessanti e che sono sicuramente collegati al tema scottante di questa sera. Per esempio. Esatto, perché lockdown e smart working hanno sicuramente influenzato la vita di tutti, hanno fatto crescere una certa voglia di indipendenza. E dovete sapere che le dimissioni da lavoro subordinato nell'era post-Covid sono state tantissime, anche perché molte persone si sono avvicinate a una nuova modalità di Una economia. filosofia New Age, oserei Esatto, dire. la YOLO economy. Ma dimmi You di più. only live once. Cioè, tu si vive una volta sola, insomma, cioè, detto proprio in soldoni. Detta, sì, detta proprio all'italiana, come si suol Esatto. dire. Ed è anche per questo motivo che, per esempio, il secondo trimestre 2021 ha visto un'esplosione di aperture di partite IVA. Forse perché, Martina, ne sai Bell'idea, raga, qualcosa? bell'idea. E forse anche perché cioè, prendi coscienza del fatto che veramente si vive una volta sola Eh sì, e eh quindi sì. probabilmente vuoi fare qualcosa per te. Sì, assolutamente. Tra l'altro, i numeri sono abbastanza importanti, nel senso che abbiamo un più 85% nel secondo trimestre del 2021 rispetto al 20. E questa cosa mi colpisce soprattutto perché ho scoperto, e qui tu mi potrai confermare, che le dimissioni di massa si concentrano prevalentemente su figure young. Esattamente, esattamente. Questo perché? Perché si assapora fondamentalmente una certa libertà. E c'è da dire fondamentalmente che i ragazzi rifiutano il lavoro come centro della loro vita, cioè non è più vado a lavorare, porto a casa lo stipendio e cresco la famiglia, tra No, virgolette. no. No, perché c'è anche un altro modo di affrontare la famiglia, c'è un altro modo di affrontare anche la costruzione di una famiglia. che arriva sempre più tardi e quindi probabilmente c'è anche una certa voglia di mettersi al centro. Una cosa che mi ha colpito molto, Giuse, e qui parlo un po' di tutti noi in questa stanza questa sera, è che tra le maggiori dimissioni in termini proprio di ruolo, il mondo dell'informatica e del digitale ha avuto proprio il 32%. Esatto, esatto. Per non parlare del marketing commerciale, 27%. Quindi fondamentalmente ci stanno dicendo, raga, cambiate vita. Esatto. Il prima possibile, esatto, se possibile. Esatto. Allora, sì, in proporzione devi sapere che poi dal punto di vista dell'anzianità, i lavori coinvolti in questo fenomeno delle dimissioni di massa riguardano i lavoratori che hanno un'anzianità da 1 a 5 anni. Quindi giovani giovani. Giovani giovani. E quindi il 75% dei nuovi dipendenti, certo, presenti in un'azienda. Se sentite rumori, perché qua i ragazzi si stanno dando alla Baldoria con le, certo, patatine. C'è una fiesta. Comunque stavo pensando che potremmo fare una puntata di Colonna con Alessandro, magari Saebi, e riprendere questo tema perché è molto interessante. Assolutamente sì, e come sapete Fedoro ritorna sempre a ricordare che ha una fantastica trasmissione che va in onda l'ultimo giovedì del mese che si chiama Colonna Sonora, e noi lo vogliamo dire a tutti i nostri fan di ascoltarlo perché è una bomba. Detto ciò, tornando a noi, quindi pensiero iolo, si vive una volta sola, in effetti, cioè, chi devo dirti che in questi ultimi 2 anni, probabilmente complice il Covid, complice il fatto che sto invecchiando pure io, ciao! Stiamo salutando ospiti. Stiamo visitando e salutando gli ospiti. Allora, complice anche il fatto che comunque c'è stato il Covid e tutto. Possiamo intervistare Gulli? Poi questo, sì, esatto. Sì, scusate, nel frattempo è arrivato Gulli. Ciao Gulli. No, niente, sostanzialmente un po' è un pensiero che ho fatto anch'io, nel senso che io in realtà lavoro non da moltissimo, lavoro da 10 anni, però la prospettiva di fare altri 45 anni nella modalità tradizionale di lavoro, sinceramente, non è esattamente quello che vorrei. Quindi in realtà sto già pensando a un modo per rivoluzionare il ruolo del lavoro nella mia vita. Ma penso che sia un pensiero abbastanza comune, Martina. Ci penso anch'io ogni tanto. Sì, sì, poi vabbè, io gioco, tra virgolette, nello svantaggio di lavorare per me e avere un sacco di problemi da questo punto di vista, ho il vantaggio anche di poter pensare a delle alternative, ecco, diciamolo così. È vero. Ma comunque, andiamo avanti, dici di più, Chucky. Allora, sempre nell'ottica di snocciolare numeri e ricerche, ci sono delle ricerche che focalizzano l'attenzione sulle soluzioni che le aziende hanno cercato per arginare questo fenomeno. Esatto, perché comunque bisogna dire, ma quelli che se ne vanno, poi le aziende cosa fanno? Esatto, il problema fondamentale è che queste aziende si concentrano esclusivamente sulla questione economica, perché fondamentalmente guadagnare più soldi fa gola a tutti. Si pensa che il problema alla fine sia quello. Ma paradossalmente una delle principali cause è proprio questa. Cioè, i datori di lavoro non capiscono quali sono i reali motivi per cui i loro dipendenti si licenziano, e la maggior parte pensa che sia un discorso di soldi. Esatto, una mera questione economica. E invece no, perché proporre solo un aumento di stipendio, cioè, non garantisce la soddisfazione del lavoratore, che in realtà non cerca solo soldi, ma uno scopo in più in quello che fa. E certo. Mi ricordo che avevo visto una ricerca, erano 1000 anni fa, non so neanche se sia più valida, però pare che la soddisfazione economica del lavoratore duri intorno al semestre, nel senso che dopo 6 mesi dell'aumento la tua personale soddisfazione va manualmente, gradualmente calando. Quindi ritornano le frustrazioni quotidiane. Esatto. Mi hai rubato la battuta. È un po' il contentino, no? Sì, per esatto, perché poi alla fine è importante, perché è importante, non prendiamoci in giro, il denaro è importante, il denaro è fondamentale, non si vive d'aria e lo sappiamo tutti, però non basta più, e soprattutto bisogna capire a cosa si è disposti a rinunciare per il denaro, cioè si è disposti a rinunciare a 40 anni della propria vita per il denaro? Ma probabilmente sì. Cioè, nel senso che se trovi il migliore equilibrio Assolutamente sì, se no no. Non lo so, io devo dire la verità, a questa domanda sto sempre di più rispondendo no, però allora facciamo un piccolo ricapitolé per i nostri amici da casa. Allora, potrebbe sembrare che questo discorso vada oltre al nostro tema della serata, ma in realtà, secondo me, Chucky, questo tipo di fenomeno dipende anche tanto da una serie di problemi legati alla vecchia scala gerarchica, quindi al capo certo, dei noartri, certo, no? Esatto, anche perché il problema fondamentale, come ti dicevo prima, è che se le aziende continuano a trovare solo una soluzione economica, ma non trovano la soddisfazione nelle connessioni interpersonali, in rapporti soddisfacenti con i colleghi e con i propri capi, finisce che non c'è una soluzione fondamentalmente. Sì, sì, sì, esatto. Perché io sono convinta che la vecchia scala gerarchica è destinata al fallimento. Fedoro, tu cosa ne pensi? Io mi ricordo che questa era una trasmissione divertente. Ma sì, un attimo. Ma adesso ci torniamo, Fedoro, un attimo. Però qua secondo stiamo me facendo i seri con le mie ricerche del campus. Esatto, però un minimo di incipit era importante, perché alla fine, se poi bisogna parlare di frustrazione, bisogna anche fare un minimo di contestualizzazione, no? Guarda, visto che c'è qua Gulli, ne approfitto. L'altra sera abbiamo fatto un'intervista ai ragazzi dei licei occupati di Milano e non solo. Domani tra l'altro ci sarà secondo episodio della trasmissione, che si intitola Gulli? Student. Che non sappiamo pronunciare. Comunque Student in onda. E effettivamente la questione delle classi dirigenti eccetera eccetera potrebbe essere una cosa superata, anche perché parlando col mio stagista, lui stesso si ritiene frustrato dalla classe dirigente che non capisce i loro problemi, non capisce i problemi del global warming e dice siamo condannati, siamo fregati, per usare le sue parole. Ok. Beh, sicuramente qualcosa non va. Qualcosa non va. Tante cose non vanno. Ma come giustamente dice Fedoro, questo è un programma divertente. Quindi è il momento di alleggerire il tutto con una tua fantastica canzone. Lo dico subito, è tua. È tanta roba. Infatti, alzate il volume per cortesia, perché il pezzo è di livellissimo e non potete perderlo. Quindi alzate il volume. Perdonateci. Stasera che fai? Portami fuori dai guai. Dentro i tuoi occhi c'è un mondo che io non ho visto mai. Scrivi il tuo nome su quel vetro appannato. Ciò che abbiamo passato, giuro non ci ha cambiato. Tu sei la mia locura, luce nella notte più scura. Baby, non avere paura se stai con me. Ma quando stiamo insieme il tempo vola. Questa notte, amore, non lasciarmi sola. Se ti guardo anche la luna si innamora. Sento un brivido, la tua mano mi sfiora. Non dire una parola, lo sai che il tempo vola. Vola, non contare i minuti. Se mi tocchi e poi mi illudi. Se mi baci ad occhi chiusi. Hai passato troppo tempo con le altre, però pensavi a me. Baby, non mi fare domande, non voglio farti del male. Ora ci sei solo tu, non chiedo niente di più. Resta così come sei, ti vorrei. Tu sei la mia locura, luce nella notte più scura. Baby, non avere paura se stai con me. Ma quando siamo insieme il tempo vola. Questa notte, amore, non lasciarmi sola. Se ti guardo anche la luna si innamora. Quando stiamo insieme il tempo vola. Questa notte, amore, non lasciarmi sola. Se ti guardo anche la luna si innamora. Sento un brivido, la tua mano mi sfiora. Non dire una parola, lo sai che il tempo vola. Martina, quando stiamo insieme il tempo vola. L'hai detta? Pensavo, certo, speravo non la dicessi, certo, ma l'hai detta. Certo. Bella la musica, bella. Guarda, la scelta musicale è top, Martina. Non dire di no. Mi sono assolutamente rifiutata di ascoltarlo, ho parlato con Gulli tutto il tempo e non me ne è fregato niente di questa meraviglia no, che tu vabbè, hai proposto. No, vabbè, Martina, per cortesia, perché poi ci dobbiamo poi sorbire. Ci invece lo sì, ci stava, sì. Dobbiamo mettere qualche suono in più, in effetti. Vabbè, li potremmo registrare noi. Sarebbe certo, bello. Martina. Ah, che bello. Va bene. Martina. Ciao, Chi. Senti, io sono arrivata preparatissima anche a sto giro. E se avete sentito dei fogli, sì, perché abbiamo una scaletta, ovviamente, certo, raga, sennò ciaone. Sì, basta, non è che ne abbiamo tutti così tanti. Comunque, vabbè, ma c'era il suono. No, in effetti hai ragione. Dunque, tutto molto bene. Mi sono fatta un identikit dei capi tipo. Poi lo dico subito, raga, da casa, se mi sono dimenticata qualcuno, fatecelo sapere. Perché io ne ho identificato qualcuno. Dai, Partiamo dall'amicone. È il momento poesia, Non è, no. Vabbè, dai, io lo chiamo momento poesia. Così, per riconoscerci così. Esatto. Allora, l'amicone è la tipologia che secondo me è più pericolosa di tutte. Cioè, sono quelli che ti invitano a pranzo, ti chiedono di uscire la sera, ti chiamano per soprannome. Poi te lo buttano al culo. E diciamo che poi una mattina all'improvviso si ricordano di essere il tuo capo. E secondo me sono un po' dolori, Sì, abbastanza. Poi c'è il fantasma, che è una tipologia che vedo non essere molto diffusa, ma esiste. È quello che non vedi mai, di cui non ti ricordi nemmeno il viso. Se lo intercetti al massimo in copia in qualche mail, ma lui c'è e ti vede. Certo, e magari ti spia anche. Esatto. Poi c'è il dittatore. Non è esattamente un momento storico in cui si parla volentieri di dittatori, però la verità è che effettivamente esistono datori di lavoro o magari responsabili di reparto che credono veramente di poterti trattare un po' come una pezza da piedi. Non so bene quale sia il loro problema di infanzia o familiare che li porta a fare così, ma questo è. Beh, io ne ho conosciuti tanti, Purtroppo ce ne sono parecchi. Poi c'è il lunatico. Giusto. Poi c'è il lunatico, che è un po' un mix fra amicone e dittatore, quindi è un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Tu la mattina lo vedi e devi cercare di capire in che mood è oggi. In base al colore della cravatta. È probabile, brutta sì. Brutta gente, brutta gente. Io ne ho avuto uno così, veramente difficile. I poveri pazzi. Sì. Poi c'è il team leader, che è un rarissimo esemplare, qua stiamo entrando proprio a Piero Angela, un rarissimo esemplare di responsabile che ti coinvolge e ti tratta. Sentiti libero, Fedoro, no, che ti coinvolge e ti tratta con rispetto addirittura e ti vuole far crescere. Allora, attenzione Martina, perché qua, cioè, ci stiamo veramente, stiamo entrando in un territorio molto difficile, perché nel mondo dei call center, sì, il team leader non è una figura così positiva. Ah, perché c'è proprio una figura, cioè proprio il team leader è una figura, diciamo, è una canonica. Esatto, è quello che è il coordinatore del team. No, no, la mia idea era proprio il concetto di leader, non volevo esatto, scocciare. Ma è per questo che il campo è abbastanza minato. Allora chiamiamolo più leader, forse, esatto, meglio più leader. Però esatto, questo diciamo che è un po' quel capo che uno spererebbe di incontrare nella sua vita, ma è difficile da trovare. Raro, merce rara. Ecco, Fedoro dice. Fedoro dice io. Ah, che bravo. Poi c'è il non capo. Allora, il non capo tendenzialmente non è la D, cioè non è il capo assoluto. È magari una via di mezzo. È quella a cui non gliene frega assolutamente niente. Ti tratta alla pari, ti fa fare quello che vuole, ma perché fondamentalmente è lì a scaldare la sedia. A caso. E siamo, va bene così, e va bene così. Poi devo dire che non è bruttissimo da incontrare alla fine. Poi, perdonate sempre un po' questo mio rientro nel mondo un po' femminista, c'è il sessista. Vabbè, quello è pieno il mondo però, Martina. Sì, lo so, però io essendo donna di esperienze sessiste ne ho avute. Una bella palpata di culo. Ecco, appunto, non sarei andata fino a questo livello. Ecco, esatto. Abbiamo anche... lo giovane. Esatto. Allora, il discorso è un po' questo, in realtà, anche se è una cosa sbagliatissima e me ne rendo conto, però una delle prime cose che si chiede è: ma il tuo capo è uomo o donna? Perché questa cosa oggettivamente crea un po' di dissensi, nel senso che c'è chi dice: per me è meglio un capo uomo, per me è meglio un capo donna, per te, Chucky? Per me, allora, guarda, cioè io non faccio distinzione di sorta, anche perché rispondendo a questa domanda si potrebbe parlare sì. ore, sì. Cioè potremmo fare veramente una cascata di parole, cioè uomo, donna, gender free, transgender, non importa, chiunque può fare il capo, cioè la caratteristica fondamentale deve essere l'equilibrio, un equilibrio che devi trovare tra vita privata, vita professionale e soprattutto cioè una minima di cultura che ti porti a capire e a comprendere quello che succede. Sì. Devo dire che se stasera la portiamo a casa con tutti i fattori di distrazione che ci sono, sì, siamo al top. Sì. Io vorrei sapere quanti ci stanno ascoltando, perché secondo me siamo noi. Esatto. Siamo noi e solo noi, ma tanto c'è il podcast, eh? C'è il podcast che... Ah, è vero, ragazzi, non dimenticate. Ricordatevi che Daily Bug lo trovate anche su Spotify come podcast. Esatto. Oltre a Daily Bug c'è anche l'Extra Bug condotto da Greta e Davide, ricordatevelo sempre. Tanta roba. Comunque, per chiudere un po' questo discorso su donna o uomo, la verità è che tante volte il sessismo nasce anche dalla donna, perché mi rendo conto che donna con donna hanno un po' di timore, quindi quando una donna trova un capodonna ha un sacco di pare in più. Ma perché io... purtroppo c'è una forma menti sbagliata che poi entra anche nella mente delle donne, è proprio un discorso culturale in realtà. Ma è vero, ma è anche tra uomo e uomo, cioè probabilmente si lotta chi ce l'ha più lungo a volte. Sì, assolutamente. È duro. Va bene ragazzi, allora, visto che abbiamo parlato di tipologie di capi, secondo me è anche il momento di far passare un pezzo molto importante che parla proprio di allora, boss. Qua, posso dire il che 2, Fedoro. Stiamo cavalcando l'onda, cioè lo il so, trend. Però questa è proprio la canzone del ci pensa lui, bello bello raga. Bello bello Martina, bello bello. Godetevela. Dai. Lui, Sì, vabbè, però cioè, non è che era bella, secondo me. Martina, cioè, va bene, bellissima, è molto divertente questa canzone, bella bella. Alla fine... Brava Martina, brava, brava, brava. Alla brava. Fine è una canzone in tema, cioè stiamo parlando del capo, arriva lui bello bello, fa tutto. C'è lui, ragione, si è costruito Martina. Lui, cioè, più in tema di così, cosa possiamo vuoi? Possiamo fare una selezione più ignorante. Più ignorante di questa? Sì. Come le mie. No, non ce la faccio, bisogna fare un po' di contraltare, cioè, chi? Hai ragione Martina, comunque. Cioè. Vabbè, arriviamo alla parte più... pecoreccia, come diresti tu. Pecoreccio. E iniziamo a mettere te sotto torchio. Senti, senza fare nomi, senza parlare di presente, passato, futuro. Allora, non sai quanto mi piacerebbe fare nomi in questo caso, ma non posso. Allora, partiamo così. Facciamo una domanda, una premessa. Fatto salvo che il mio identikit di capi è perfetto. Sì, perfetto, perfetto. Dimmi quali capi hai incontrato nella tua vita innanzitutto. Allora, io in realtà li ho incontrati un po' tutti, perché alla fine se ci pensi, cioè, un capo... Hai fatto ho fatto un bel lavoro. Hai proprio fatto un bel lavoro. Però sì, puoi incontrare questo tipo di capi sempre e comunque. Ma quella che mi ha colpito di più, e già qua ho dato un indizio, già donna, donna, è l'amicona. E sai perché ti ho fatto quella puntualizzazione? Perché era una team leader. Era una team leader. Porca, qua stiamo dando un sacco di indizi in realtà. Sì, era una ciarlatana. Ecco, cioè, ma adesso, a posto. Sì, scusami, devo togliere un sassolino dalla scala. Questa descrizione secondo me ci stava, il capo ciarlatano, Sì. Allora, questa persona... Allora, devo dire che in realtà sono sempre stato più o meno fortunato, o forse... ho avuto sempre l'indole del cazzomene, cioè... Sì, beh, quello è importante, è un po' il muro di gomma. Esatto. Tu mi vessi e io cazzomene. Io ti ignoro, esatto. Ma che cazzo me ne frega. Ci Però sto. Davanti a questa persona ho sempre provato un po' una sindrome di Stendhal, come dire. Cioè, era un'opera d'arte, però che si votava al brutto. E io stavo male. Quindi per in realtà tu cosa. Eri attratto anche in un certo senso dalla sua follia. Certo, perché ti giuro, io non ho mai visto una persona così avida di potere ricoprendo un ruolo da team leader, ragazzi, in un call center, cioè non stiamo parlando di amministratore delegato della compagnia, certo, petrolifera quotata in borsa, esatto, la CEP, no, team leader del call center. Ma sai, in realtà sono quelli che, tra virgolette, perché poi non è mai una questione personale, valgono meno, che se la sentono di più. Sì, ma poi, cioè, si era talmente tanto montata la testa che dopo averti invitato a bere il caffè, invitato a bere l'aperitivo, invitato a casa tua, urca, a casa sua, mai cedere, esatto, poi se non le davi più corda e non riconoscevi il suo ruolo, certo, dava i numeri, oltretutto i numeri. Dava i numeri anche in maniera abbastanza, cioè, bislacca, un po' da ciarlatana, cioè, sempre mi ricordo che un a... giorno dopo aver dato i numeri gli si slacciarono anche i pantaloni e si videro le chiappone. Mamma mia, sì, ma come ne è uscita? Guarda, ha fatto la matta, cioè, mamma ha detto, mia, che paura. Sei incazzata come poche volte. Fedora, smettila di mangiare le patatine e raccontaci un aneddoto. Che capo hai incontrato nella tua vita? Un aneddoto su un tuo vecchissimo capo. Non attuale, non se ne frega. No, no, vecchissimo. Beh, molto bene. Sono in buffering. Sto pensando. No, io ho sempre avuto degli ottimi capi che mi hanno fatto crescere e insegnare. Non è vero. No, vabbè, io ho incontrato il ciarlatano, l'asino. Sono nuove categorie. Qua creiamo categorie a nastro, esatto. No, scherzo, sempre persone bene o male nella media, nel senso che comunque fare il capo non è una cosa semplice secondo me. Quindi va bene così. Sì, sì, poi alla fine è anche vero questo, nel senso che fare il capo, comunque avere la responsabilità di persone, non è facile. Non ti distrarre col scusami, telefono. Abbiamo gli amici da casa che ci scrivono. Ho capito, ma non è che dire. Ti puoi perdere così. Poi cosa ragione, facciamo la scaletta a fare? Comunque, mentre mi tiravi il buffetto, ho fatto uno screenshot. Bene, bene, così. Bene, bene. Toccherebbe a te. Cosa devo dire, Martina? È dopo l'intervento di Fedoro. Ah, ok. Scusate. No, tutto a posto. Scusate, ma adesso che tu, Martina, cioè sei un capo... Molto sentita questa domanda. Sei un capo, non Martina. Hai dovuto leggerla. No, ma va, figurati. Raccontaci la tua. È scritto così. Raccontaci la tua, punto esclamativo. Allora, passetto indietro. Io la vedo così. Non ho datore di lavoro. Beata. Non sono un capo. Sono due cose un po' diverse. Anche perché... Non è vero che non ho capi, ma ci arriviamo con calma. Allora, non hai seguito pedissequamente la scaletta? No, perché non mi serve, capisci? Io non ho bisogno di leggere, non mi perdo. Stai dicendo che io devo leggere? No, però so esattamente dove siamo e quello che voglio dire. Tu? Io no. Cacchio. No, allora, il discorso è questo. Io preferisco definirmi, diciamo, una sorta di project leader. Cioè, cosa vuol dire? Le persone con cui lavoro, tra l'altro Greta è qua, può smentire se vuole. Greta è in redazione. Per me hanno l'estrema libertà, soprattutto a livello creativo, nel senso che io ho provato a fare la creativa finta, cioè quella che fai la creativa sì, però fai quello che dico io, ed è abbastanza frustrante. Quindi da questo punto di vista sono liberi di gestire il loro tempo, sono liberi di gestire il luogo in cui fare il lavoro che devono fare. Non ho nessun tipo di non metto nessun tipo di pressione da questo punto di vista. L'unica pressione che metto è in merito al rispetto del progetto, nel giusto. Senso che io li coinvolgo al 100% su tutto ciò che sono le idee e il percorso che Supermad deve o vorrei che avesse, e da questo punto di vista ascolto anche quello che loro hanno da dire, però devono portargli rispetto sia a livello professionale ma anche proprio a livello di, cioè non solo devono crederci, e lì però se ci credono o non ci credono non è che li posso obbligare, però sicuramente li devono portare il rispetto che merita con un livello di professionalità che è costante. Sono andata troppo veloce, un lo so. Filino, Martina. Comunque, guarda, allora devo spezzare una lancia, anzi lanciare. Lancia una lancia. Una lancia. A tuo favore. Girati. Sì, lancia la lancia. Alla schiena. No, comunque, allora, io ho conosciuto Martina quando lei faceva... Nel lontano... Non me lo ricordo. 2017. Ah, così tanto, Martina? Sì. Minchia. 5 anni sono passati. Fucutuge. Tanta roba. E devo dire che è vero, Martina ha questo piglio coinvolgente da grande ospite. Quindi... Sì, io cioè, tipo, li circuisco. Esatto, cioè, butto esatto. Tanto di quell'entusiasmo che alla fine ci credono, ma poi non hanno capito bene qual è il motivo per Però cui sono così entusiasta. Questa è una caratteristica che un capo dovrebbe avere, cioè... essere l'ospite perfetto. Carisma, però non chiamiamolo carisma, perché secondo me dobbiamo abbandonare un attimo i vecchi modi, diciamo, i modi di una volta. Esatto, sì, però esatto. Allora devo la dire cazzimba, che la cazzimba. Io ci tengo veramente tanto alle persone con cui lavoro, per me sono il mio primo pensiero, nel senso che adesso sto per dire una roba per cui vabbè, non ci dormo esatto. La notte, no. Sì. Ti svegli la mattina e pensi a Greta? Sì, nel senso che il progetto deve andare e deve funzionare innanzitutto per loro, perché loro, io ho la loro responsabilità. Per me è fondamentale che loro A, siano felici, B, abbiano sempre la garanzia di poter lavorare con me e di fondamentalmente portare a casa uno stipendio al di là di tutti i casini certo. Che ci sono poi nel... Ragazzi, mandate candidature a Nastro, a Supermad. Magari, se potessi, prenderei tutti. Però sì, li rispetto veramente tanto e per me è fondamentale che loro... si sentano parte del progetto, tant'è che tutte le volte che posso, se arriva qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, se arrivano anche dei premi, sono condivisi. È vero. Piccola postilla, voglio dire una cosa. Voglio dirti che esiste una nuova tipologia di capo che ho scoperto proprio facendo questo lavoro autonomo. I client capi. Madonna, ragazzi, no, questo sì, questo è veramente una categoria agghiacciante. I capi clienti. Sì, i client capi sono la peggio categoria dei capi che possano esistere, perché tu non hai un capo, ne hai tanti, e tante volte si dimenticano che tu non sei al loro servizio, ma sei un loro partner, e questa è una cosa molto diversa, e il rispetto dovrebbe essere quantomeno uguale, no? Certo. Però penso che se si comportano così con i propri fornitori, penso che si comportino così anche con i propri collaboratori. Sì, probabilmente sì, non lo so. In realtà credo che non è così detto, nel senso che secondo me, essendo noi esterni, a volte ci sottovalutano un po', nel senso che vabbè, ma loro sono i miei fornitori, devono fare quello che diciamo noi. Non è proprio così, perché non è che siamo scimmie, cioè siamo comunque esseri umani che dovrebbero avere un pensiero e un'idea, per cui vabbè. Detto ciò, siccome a me non piace usare la radio per scopi personali, È il momento di mettere una canzone meravigliosa, spaccavetri. Ah, tocca a te, io speravo toccasse a me. Quindi alzate ancora il volume. Che paura, cortesia, raga, che paura. Questo giro, cioè, vi rallegro la serata. Mamma mia, super scioccante. Non è vero, Martina, dai, su, cioè abbiamo alzato un attimino il tenore musicale di questa serata, no? Non so usare queste cuffie. L'avevo capito, forse l'hanno capito anche da casa. Scusate. O dalle macchine, o dalle cucine. Martina, ti sei persa. No, la non mia mi sono persa. Ti ha inebriato. È veramente, cioè, ti giuro, Giuseppe, non ho mai sentito una cosa così. Madonna mia, ma io non oso immaginare se venissi a casa tua che cazzo di musica mi faresti ascoltare. Allora, a parte i classici. E va bene, però dopo un po' i classici, cioè li abbiamo ascoltati io personalmente per 44 anni. Capito, che cosa ti devo dire? Ma i classici non passano mai di moda, sta roba che cos'era? Papete Beach, che cazzo era? Più o meno. La sua redazione è piaciuta di brutto, vero Greta? Papà lavora con me, tra l'altro. Amici da casa, vabbè, ecco, comunque cosa devo dire? Comunque, ho fatto un mio monologo, ora tocca a te. Cioè, tu sei responsabile... Capo, che tipo di capo responsabile sei? Dio Martina, che leader sei? Che domande fai, per cortesia? Dai, amo, dimmelo. Allora, io, cioè, amio, cioè, amio, cioè, no, scusate. Dai Martina, però, cioè, facciamo i seri. Scusate. Ecco, vedi, a dire queste cose. Allora, io devo dire che, cioè, forse sicuramente in passato qualcuno mi ha anche odiato e penso che qualcuno... Che tu debba leggere una cosa che ti riguarda è agghiacciante, sappilo. E penso che qualcuno stia anche ancora giocando con la mia bambolina voodoo. Bravissima Martina. Ti aiuto a riprendere il filo perché ti vedo veramente al top questa sera. Comunque Martina, allora, è qua, c'è, posso dire la citazione di livello? Sentiamo. Allora, io penso di essere un po' come la dottoressa Tracy Clark. E qua non lo so se il pubblico possa capire, però Ellie McBeal vi dice qualcosa. Esatto, la dottoressa Tracy Clark era la psicologa di Ellie McBeal. Lo so, siamo vecchi. Io sono vecchio. Adoro. Tu sei vecchia. Poughkeepsie. Tutta la vita Poughkeepsie. Ma sappiate che per me Ellie McBeal è una delle serie TV assolutamente, cioè, più riuscite al mondo. Assolutamente. Cioè, ciao Netflix, ciao. Bellissima. Vabbè, e insomma, devo dire che insomma, posso, scusate, mi sono distratto. Strano, non si distrae mai, ragazzo. Allora, ho metodi un po' fuori dall'ordinario, magari un filino. Se penso alla scrivania del tuo computer. Vabbè, ma quella è roba mia, no? Alle tue agende. È ancora roba mia. Casuali. Comunque Martina, devi sapere che io sono per la terapia del sorriso, cioè per la musica diffusa, per l'ironia. Bella soprattutto. Esatto. E questa terapia del sorriso fondamentalmente non richiede altro che gentilezza e allegria. Sei uno psicopatico, quindi. No, non è vero, perché la gentilezza comunque, se ci pensi, sta alla base del buon capo, no? Certo, poi ci sono i momenti in cui uno si deve anche incazzare, come dire, però... Sì, certo. Guarda, io posso dire una cosa, a volte, perché noi lavoriamo insieme, a volte tu diventi mio client capo, nel senso che a volte mi fai delle richieste, ok, certo. Dal punto di vista proprio di richieste da cliente, uh-huh. E dovete sapere che Giuse quando fa le richieste ti chiama Martina, e lì sai già che è... Un'inculata pazzesca. Ma non è vero. Però è vero, lui ha un modo sempre molto gentile, è una persona molto collaborativa, molto comprensiva. Quindi, oh, raga, prima lui ha lisciato me, ma io devo lisciare Giuse, perché Giuse è veramente una persona pazzesca. Nel senso che se 5 anni fa ci siamo conosciuti, oggi ancora lavoriamo insieme. Grazie che devi Martina, fa? Madonna mia, sto arrossendo. Cioè, comunque è tutto sarcasmo questo. No, è tutto vero. Fedoro, se la smetti di girare avrei una domanda per te. Te la senti di rispondere ad una domanda? Come ti definiresti come capo? Fantastic. Umile. Sicuramente un capo umile. No, dai, io sono un capo che tira in mezzo la gente, nel senso che ti faccio bere le birrette e poi si va a giocare a calcetto, è bellissimo, c'è la calcio balilla. Vabbè, detto così, sì, però... Sono un capo simpatico. Vabbè, però un po' di verve. Mi hai mai visto urlare? Sì. Sì. Sì, ti ho visto urlare. Ma non con i colleghi. Sì. Beh, comunque, molto bene. Dico molto, io una cosa su Fedoro. Io sono entrata nella vecchia azienda e Fedoro fondamentalmente era in parte un po' il mio tutor. E quindi posso dire qualcosa su di lui. Su di lui dico quello che Giuse ha detto su di me: l'entusiasmo. Fedoro porta un sacco di entusiasmo. Poi quando va un po' in sbatti bisogna farlo contare fino a 10, però in realtà secondo me potrebbe essere un ottimo leader Fedoro. Va bene. Dopo tutto ciò è il momento di fare ciò che avevamo detto all'inizio, cioè non abbiamo ospiti, abbiamo coinvolto gli amici e parenti che sono questa sera in redazione con noi, ma in realtà esatto, ma in realtà noi abbiamo lanciato un sondaggione. Il sondaggione. E vorrei condividere con te un sacco di risposte che ci sono arrivate durante il sondaggio della scorsa settimana. Vai. Ma mi sentono, fidati Fedor. Spara, spara. Allora, devo dire che mi ha stupito molto. Probabilmente perché io ero rea della mia esperienza con i capi e quindi mi aspettavo risposte completamente diverse. Ma diciamo che la community di Supermad non ha delle particolari diciamo esperienze negative con i capi. Ah, molto bene. Tant'è che infatti quando ho chiesto che rapporto hai con il tuo boss, il 50%, 57% mi ha detto buono, solo 14% pessimo e il restante 29% aggiorni. Quindi in realtà, beh, devo dire che cioè, è abbastanza consolatoria come esatto. cosa. Dopodiché ho chiesto come lo definiresti, perché sai, stavo facendo la mia poesia, esatto. E, ho chiesto amicone, invisibile, egocentrico, buono. E l'8% ha detto amicone, l'8% ha detto invisibile, il 31% ha detto egocentrico e ben il 54% ha detto buono. Ragazzi, cioè è uno scenario meraviglioso questo. Veramente da speranza, no? Esatto. È da speranza. Dai, amo, da speranza, cioè, no? Dai, amo. Poi, hai mai avuto delle difficoltà nell'andare a lavoro proprio a causa del tuo capo? Cioè, la mattina, quando ti svegli, ti è mai capitato di avere l'ansia proprio a causa del tuo capo? Addirittura il 75% mi ha detto no, dai. Solo il 25% mi ha detto sì, spesso. Davvero? E su questa cosa mi sono trovata molto lontana, perché a me è capitato di avere l'ansia la mattina a causa del mio capo. Cioè, lui... perché ero lui, mi rovinava proprio il lavoro. Non ero io, eh? No, non era lui, non era Fedoro. In realtà, cioè, da casa in questo momento mi dicono che abbiamo truccato i risultati. No, giuro, giuro, è la Tassi? No, non è la Tassi, no, saluti a casa. Saluti a casa, no, no, assolutamente no, infatti sono rimasta scioccata perché... Per me non era così, cioè no, le mie esperienze con i capi sono state tendenzialmente bruttine. È uno scenario fin troppo positivo, nel senso che io sento tutti i giorni... Le frustrazioni. Di gente veramente frustrata con quotidianamente. Ma questi, cioè, sono le stesse persone che ci hanno chiesto di fare questa puntata, e quindi dici, ma che problemi hanno? Cioè, che devono fare un attimo pace con il loro cervello? Però in realtà, così hanno risposto, guarda. È vero, grazie Martina che mi dai anche la prova provata. Io invece ho avuto problemi, ed è bruttissimo. Ma penso che chiunque abbia avuto problemi. Forse questi veramente vivono, cioè, in un mondo ideale. Cioè, io ho anche pianto, eh. Mi è capitato anche di piangere dal nervoso. È un momento dramma, no, ma no, ma... Però cioè, no, capita. Poi adesso, ero giovine, molto giovine, ero appena uscita dall'università, il mondo era meraviglioso. Agno. Capito, Agno. No, comunque, no, io capisco perché, cioè, tutt'oggi, tuttora vedo situazioni abbastanza, posso dire anche imbarazzanti. Capito, esatto. Di gente che obiettivamente è talmente stressata, talmente sotto pressione. Poi per delle cose, ragazzi, ricordiamoci che non... nel nostro campo, io parlo di noi, non dobbiamo salvare vite, quindi non c'è la pressione oddio oddio perdiamo il battito. Ti racconto un aneddoto. A me è capitato che il mio capo mi venisse a bussare in bagno. Beh, molto bene, direi. Cioè, mi stava cercando, i ragazzi che lavoravano con me hanno detto in bagno, Martina, Martina! Molto bene, direi. Cioè, ecco, questo cioè, è quella comportamento... roba lì, io ti giuro, sono uscita con gli occhi sgranati, ho detto, ma raga, ma tutto a posto? Esatto, col senno di poi probabilmente gli avresti tirato la carta igienica. La porta direttamente, esatto. Gli tiravo. Però, cioè, in quei momenti cosa fai? Cioè, no, sono uscita, ripeto, ero molto giovane, nel senso che sono passati 10 anni precisi, perché siccome adesso sono giovane, allora ero molto giovane, e devo dire che mi ha lasciato particolarmente sconvolta. No, no, ma posso capire, perché ti ripeto, cioè, tutt'oggi vedo cose che non dovrebbero più verificarsi, soprattutto nel momento in cui la gente non riesce a trovare quell'equilibrio, cioè, esatto, il capo. Esatto. Poi alla domanda, sei un boss di qualcuno? In realtà il 75% mi ha detto no, solo il 25% poveri, è boss di qualcuno, ma va bene così. E qualche rispostina alla domanda del il mio capo è differente in che modo? Allora, senza fare nomi, sempre per il discorso di privacy, ma tanto si riconosceranno, li ho mandati a cagare tutti. Molto bene. Questa ragazza ha mollato fondamentalmente il suo ex posto di lavoro e ha deciso di fare altro. Il mio unico capo è il denaro. Allora qua sbadabemmet. Esatto, male male, eh? Quando rubandomi il lavoro mi ha detto: l'ho fatto per te, per toglierti un po' di roba da fare. Certo, come no, siamo tutti amici, mi hai rubato la bici. Esatto, poi vabbè, un capo, perché so essere un capo, mi ha risposto, beh, in effetti non puoi dire nulla, e una gretana ha risposto, vabbè, devo risponderti in chat, e non mi ha mai detto nient'altro, perché secondo me non se l'è sentita, visto che doveva parlare lì. Si è censurata da sola, no, fondamentalmente. Comunque, io ho ricevuto anche messaggi di persone... Ciao Angela. Angela. Hanno preso addirittura l'aspettativa per sfuggire alle grinfie del capo. E quindi c'è di tutto e di più. Questo è un panorama veramente, cioè, in cui si trova qualsiasi cosa. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Facciamo un piccolo ultimo stacco musicale, perché il tempo vola quando ci si diverte. E questa la dedico al mio papà. Molto bene. Non la introduci? Lui la conosce. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? You duck back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out, call me out. Is a foreign man, he is surrounded by the sound. Molto bene. Molto bene. Abbiamo Martina. Rialzato un pochino il livello, eh? Senti, per cortesia, abbiamo perso ascoltatori. Assolutamente no. Secondo me ballavano tutti. Perché poi dopo una serata, devo dire, un po' pesantina questa sera. Abbiamo un po' rotto le palle, secondo Vabbè, me. Vabbè, no, però abbiamo messo, cioè, carne al fuoco, sì, come sì, dire. Sì, sì, sì. E dopo una serata così ci voleva assolutamente una canzone un po' allegrotta. Ma perché le mie non erano allegre? Belle. Devi dire belle. Allora, ci sono rimaste ci sono rimaste 3 minuti. E in questi ultimi 3 minuti, domande a bruciapelo per te, Chucky. Molto bene. Ma a bruciapelo mi devi rispondere in un secondo la domanda. Dai. Dei capi, tipo, che abbiamo visto e descritto, chi hai incontrato? Allora, di Amiconi a Nastro. Di Striscio ho visto atteggiamenti sestissimi. A tuono. E questa cosa è agghiacciante perché praticamente siamo nel 3000. Sì, ma non ci arriviamo, tranquillo. Capi invidiosi ne hai avuti? Sì, e mi fermo qui. Urca. Capi male. A cui stavi palesemente sulle palle? Può essere, ma non l'ho mai saputo. Capi che ti hanno tolto il sonno? Capi no, clienti sì. Ehi, sono stato detto che sono i peggiori clienti capi. Male. Sei mai andato via da un posto di lavoro a causa del tuo capo? No, per fortuna no. Qua ce n'è uno, ma non diremo chi. Un capo ti ha mai fatto piangere? No, no, anche perché non so come avrei reagito. Io ho pianto. No, povera Martina. È stato brutto. Hai mai avuto un capo che non ricordasse il tuo nome? Cioè, tipo, no, che non sapeva nemmeno bene cosa che facevi nella tua No, questo mai, dai. Dai, bene. Per fortuna. Bene. Secondo te può esistere un modo per lavorare senza capi? Nì, nel senso che il capo inteso come capo tradizionale sicuramente deve sparire, ma un capo inteso come guida ci vuole sempre. È importante, sì, importante. Sì, sì, sì, sì, sì. Dunque, super amici, c'è tempo per fare le stesse domande a te? Sì, dai, un minutino. Ricominciamo da capo. Dei capi. Applausi. Tipo? Dei capi, tipo che abbiamo dei capi tipo che abbiamo descritto. Chi ha incontrato? Dottor Jekyll e Mr. Hyde, quindi il pazzo, quello Mimì che è. Cocò in una stessa persona. E più o meno amiconi, però anche dei dittatori. Molto male. Sì, capi molto invidiosi? Male. No. Molto bene. Capi a cui stavi palesemente sulle palle? Capi no, professori sì. Ah, molto bene. Capi che ti hanno tolto il sonno? Sì. Ecco. Sei mai andata via da un sì. posto? Un capo che ti ha fatto piangere? Sì. Hai mai avuto un capo che non ricordasse il tuo nome o non conoscesse il tuo ruolo? No, no, no, no, è sempre poche persone. E secondo te può esistere un nuovo modo di lavorare senza la figura tradizionale del capo? Capo come capo sì, leader no, leader è importante, qualcuno che trascina serve Molto sempre. Molto bene Martina, è per questo che lavoriamo insieme. Mamma mia. Comunque per il gender neutral avremmo dovuto dire cap. L'asterisco sempre. Capix. Vabbè, non possiamo metterlo l'asterisco. Troveranno un modo tipo Amio. Per dire cap. Sarebbe bellissimo. Va bene Amio, direi che anche per questo mese abbiamo fatto il nostro. Non faremo sondaggioni perché abbiamo in serbo delle sorprese. Grandi per sorprese, il prossimo mese. Ragazzi, siamo pronti. Vi promettiamo, cioè veramente una puntata pum. Fedora, possiamo chiudere con la nostra sigla che amo sempre e dire a tutti quanti un saluto da casa al pubblico. Va bene ragazzi. Da casa? Sì. Da casa al pubblico. Sì. Adesso te ne sei accorto. È una stronzata che ho detto il primo mese e che mi sto portando dietro perché è diventato ormai un modo di dire. Ma perché qua ci sentiamo a casa. Certo, sì, ci sentiamo. Ciao Gulli, ciao Greta, ciao Fedoro, auguri ciao Fedoro, ciao Chucky. Ciao Martina, ciao ragazzi.